Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Avete sentito, siamo in questa staffetta con le trasmissioni principali di Radio 24 dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Siamo qui, vi do tutte le coordinate così potete anche venirci a visitare se siete di passaggio al polo fieristico di Rho, Milano, al padiglione 3, stand B11, C14, sembra proprio una battaglia navale. Radio 24 è radio ufficiale di questa manifestazione e da oggi fino a domenica saremo qui con trasmissioni in diretta ogni giorno. Dopo Nicoletta Carbone ci siamo noi di Salva Danaio e parliamo naturalmente anche noi di questioni legate al turismo. Con la tragica vicenda del naufragio della Costa Concordia è purtroppo tornato di attualità, fra le altre cose, anche il tema dei diritti del turista e della loro tutela, della tutela appunto del turista. E anche qui a Salva Danaio abbiamo avuto modo di raccontare, lo ricorderete, come muoversi fra indennizi, richieste di risarcimento, definizione di danni materiali e in alcuni casi anche psicologici. Tutto un procedimento che naturalmente non è semplice, come potete ben comprendere. Dalla scorsa estate, per tutelare i turisti in partenza e garantire il buon funzionamento dell'intero settore, è in vigore il nuovo codice del turismo, che contiene diverse norme rivolte sia ai viaggiatori che alle imprese che operano nel settore. Dal danno morale da vacanza rovinata al giro di vite sulle truffe online, dai buoni vacanza alle norme sui servizi via internet, al miglioramento degli standard dell'offerta da parte delle strutture fino alla loro valutazione, questi i temi principali toccati dal nuovo regolamento. Noi oggi torniamo a parlarne e ci vogliamo concentrare soprattutto su quei punti che si riferiscono ovviamente, Salva Danaio, alle finanze del turista consumatore e quei punti che regolano indennizi e risarcimenti, anche perché non sempre queste norme si conoscono fino in fondo e spesso si rischia di fare confusione. Allora, i nostri ospiti di questa mattina, l'avvocato Barbara Monti, responsabile legale Federviaggio Confturismo, che ci ha raggiunto qui nel nostro padiglione. Avvocato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Siamo collegati telefonicamente anche con l'avvocato Vittorio Buonaguidi, giusconsumerista, avvocato di Telefono Blu. Avvocato Buonaguidi, buongiorno e bentornato anche lei. Buongiorno a voi e grazie. Ci sente benissimo. E poi, prima di toccare questo argomento che è molto ampio, toccherei per un attimo anche la questione della tragedia del Costa Concordia. Perché? Perché ci sono delle novità sulle possibilità di richiedere risarcimenti da parte dei passeggeri della nave naufragata all'isola del Giglio il 13 gennaio scorso. Come sapete è stato formulato un accordo molto importante fra Costa Crociere, Astoi, che è l'associazione appunto del tour operator aderente a Confindustria, e un gruppo di associazioni dei consumatori che hanno stabilito l'entità dell'indennizzo e del risarcimento alle famiglie appunto colpite da questa, chiamiamola così, disavventura, ma che sicuramente è un termine che non rappresenta quello che è successo per chi invece è stato colpito da una situazione ben più grave. E allora cosa è successo? Quali sono le ultime novità? Stamattina ce le facciamo raccontare dall'avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori. Avvocato Dona, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Abbiamo qualche minuto di tempo con lei per appunto spiegarci quali sono le novità degli ultimi giorni. Mi sembra che sia arrivata una proroga di diversi giorni del termine per accettare l'indennizzo da parte delle famiglie appunto che ne faranno richiesta. Ci racconta un po' il punto della situazione? Sì, in realtà non è cambiato molto nella sostanza, perché come abbiamo ribadito più volte noi delle organizzazioni dei consumatori, questo accordo non prevedeva e non prevede alcun termine di adesione. Resta un accordo volontario, si compone nel dettaglio di circa 14.000 euro, 11.000 euro a titolo di rimborso in denaro e 3 o 4.000 euro a seconda dei casi di rimborsi di spese effettuate dai turisti. Non è un accordo volontario, perché ovviamente lo potranno e lo dovranno accettare soltanto i naufraghi che hanno subito un danno lieve, per il quale noi delle organizzazioni dei consumatori abbiamo ritenuto che questo importo possa essere adeguato. Naturalmente, qualora il viaggiatore che si trovava sul Costa Concordia possa provare un maggior danno, potrà attivare altri canali, a cominciare da una autonoma trattativa con la compagnia fino ad arrivare eventualmente a rivolgersi al giudice. Inutile dire che i casi più gravi di lesioni fisiche o a addirittura di persone decedute o di familiari che tuttora risultano scomparsi, sono del tutto al di fuori di questi importi, che non sono compatibili, come dicevo, con risarcimenti se non per fatti lievi. Riguardo alla scadenza, qualche notizia di informazione alimentata dalla stessa compagnia aveva indicato un termine addirittura al 14 febbraio per aderire, come se oltre quella data questa offerta di Costa, frutto di una trattativa molto lunga con le associazioni, non fosse più accessibile. In realtà non è così, oggi Astoi comunica che c'è una data indicativa al 31 marzo, ma serve semplicemente per agevolare, rendere più rapide le modalità per riscuotere queste cifre. Tra i vantaggi che noi riteniamo significativi di questa nostra trattativa c'è il fatto che questi importi verranno bonificati nel giro di una settimana, quindi evidentemente io stesso sono un avvocato, conosco bene i tempi, le lungaggini di un giudizio civile che non solo rischia di portare un contenzioso molto in là nel tempo, ma io ricordo ai turisti bisogna provare il danno, senz'altro il fatto è molto grave, ma poi nel concreto dovrò dimostrare che la perdita del mio bagaglio può essere risarcita con un importo piuttosto che un altro, ed è una prova non sempre facile da acquisire, così come quella del trauma psicologico, perché se è a tutti chiaro in astratto il dramma vissuto da questi viaggiatori, altro è poi di darne prova medico-legale davanti a un giudice. Quindi insisto, pur nella sua volontarietà, un importo vantaggioso per chi ha subito danni lievi. Entro il 31 marzo di quest'anno è consigliabile di far presente alla compagnia la propria volontà di aderirvi. Se qualcuno però dovesse trascurare questo termine, grazie alle associazioni dei consumatori si può comunque beneficiare di questa compensazione. Ecco, lei ha parlato del ruolo delle... Sì. No, mi scusi, avvocato, no. La facoltà di scegliere il ricorso al giudice per chi qualora ha non si ritenga, un danno più facilmente. Certo, e non si ritenga sufficiente la cifra che è stata appunto deliberata in questa proposta di compensazione. Ha parlato del ruolo delle associazioni dei consumatori, avvocato Dona, per fare richiesta per le famiglie che ancora non l'hanno fatto e per le quali appunto si è prorogato questo termine. Bisogna rivolgersi direttamente alla Costa Crociere oppure potete farvi anche da intermediari, voi appunto organizzazione dei consumatori? Noi stiamo svolgendo già questo ruolo, lo continueremo a fare volentieri, naturalmente senza alcun costo, non ha avuto nessun peso in una situazione del genere, ci mancherebbe altro la nostra trattativa e tantomeno l'assistenza per chi fosse interessato. Io posso, per quello che riguarda la nostra associazione, segnalare il nostro sito che è www.consumatori.it, sul sito si trovano tutte le informazioni per entrare in contatto con noi e se qualcuno volesse maggiori informazioni sull'accordo, capire nel dettaglio che cosa prevede o essere aiutato nell'inoltrare alla compagnia la propria richiesta di rimborso, siamo naturalmente a disposizione dei vostri ascoltatori. Avvocato Dona, grazie molte per la sua collaborazione di questa mattina, buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro lì. Noi andiamo invece adesso al codice del turismo, ricordo naturalmente che tutti gli ascoltatori possono chiamarci all'800 24 0024, potete scriverci al 349 238 6666, potete animare il nostro profilo Facebook come fate tutti i giorni, l'indirizzo del nostro profilo è salvadanaio-radio24, potete anche scriverci appunto a salvadanaio@radio24.it. Allora, io... stavo così un po' ragionando anche sulla questione della Costa Concordia perché ricordando un po' anche tutte le modalità con cui l'accordo è stato fatto tra Astoi, la Costa Crociere e le associazioni dei consumatori, appunto leggo e ricordo che si tratta di un accordo di carattere extragiudiziale. Avvocato Monti, che cosa vuol dire questo, così almeno ci capiamo subito con i termini legati anche alle questioni giuridiche appunto della tutela dei consumatori? Beh, intanto un accordo extragiudiziale è un accordo che si perfeziona al di fuori del giudizio, quindi come ha ribadito il collega Dona e ha precisato correttamente, si tratta comunque di una modalità fondata sulla libera volontà di coloro che vi aderiscono, data anche la gravità del fatto accaduto. Ovviamente quanto succede poi in corso di giudizio è tutt'altra cosa, esistono delle regole molto più precise e vincolanti e pertanto anche determinate e vincolate dalla lungaggine, dai tempi processuali che sicuramente non sono quelli che possono avvenire al di fuori e quindi extragiudizialmente. La questione extragiudiziale legata al turismo è stata rafforzata, se non sbaglio, dal recente codice del turismo appunto entrato in vigore la scorsa estate? Sì. senso, nel senso che l'articolo 67 del codice del turismo ha inserito la possibilità, la facoltà che il turista possa concludere con il tour operator un patto con riguardo a forme di gestione del reclamo alternative al giudizio, e laddove conclude questo patto, tale patto diviene condizione di procedibilità, che è un termine strettamente tecnico, nel senso che è una condizione per procedere. Il giudice dovrebbe, laddove venisse notificato un atto di citazione e non fosse stato rispettato il patto, dichiarare improcedibile il giudizio. Accade che laddove avviene questa circostanza, il giudice dia un termine alle parti per poter poi invece riferirsi agli organismi di conciliazione al fine di percorrere questa strada alternativa. Diciamo che è uno strumento, a mio parere, utile al fine di evitare che piovano, mi si consenta il linguaggio piano, atti di citazione inaspettati sulle scrivanie dei customer care, perché accade qualche volta che i termini di reclamo, e qui mi soffermerei, non vengano rispettati, perché naturalmente non sempre il turista è al corrente, e quindi si incarichi un collega il quale poi procede correttamente, ma procede senza aver percorso strade stragiudiziali che potrebbero evitare costi non solo al consumatore, ma anche all'imprenditore. Allora adesso magari ascoltando qualche caso concreto dei nostri ascoltatori, appunto, ci spiegherà qual è la strada corretta appunto per non sbagliare. Avvocato Bonaguidi, vorrei sentire subito un commento anche da parte sua. Tra l'altro, tra un paio di minuti abbiamo già la nostra prima pausa e vedo anche degli ascoltatori pronti ad intervenire. Il recente, sentite intanto che siamo in diretta dalla BIT, quindi non abbiamo detto una bugia, perché come sentite le voci delle hostess e delle informatrici appunto sulle iniziative che si stanno svolgendo questa mattina, peraltro sono proprio minuti caldi dell'inaugurazione, per cui ci sono anche tutte le istituzioni presenti che stanno appunto animando ulteriormente questa giornata. Avvocato Bonaguidi, il codice del turismo è entrato in vigore la scorsa estate, un suo commento sulle novità introdotte, quali sono appunto le parti che hanno avuto a suo giudizio una portata più importante per i consumatori? Sì, sicuramente è un momento epocale, possiamo così definirlo senza difficoltà e senza timore di eccedere nella definizione. Sicuramente anche il rinnovato accentramento sullo Stato di alcune funzioni legislative, come risulta palese dal testo del decreto, del testo unico sostanzialmente, la dice lunga su quanto diventi per il nostro Stato importante questa materia, che anche da un punto di vista economico risulta essere oggi, in un momento di profonda crisi del mercato sia interno che internazionale, un potenziale sbocco e un potenziale mercato sul quale la nostra nazione può puntare molto. Quindi vorrei ricordare subito ed esaltare il fatto che le funzioni che prima erano prevalentemente, se non quasi esclusivamente, incentrate in capo alle regioni, tornano in maniera preponderante in capo allo Stato. L'addizione della norma è molto chiara e su questo non spenderei altri termini. Dopodiché andiamo ai consumatori, che sono quelli che gestisce lei più frequentemente, avvocato. Prego. No, appunto, le chiedevo quali sono le novità di impatto più rilevanti. Ah no, credevo che ci fosse un collegamento in diretta. Abbiamo tra poco. No, per quanto riguarda i consumatori c'è un rafforzamento della tutela, perché ci sono delle definizioni più spiccate, più precise per quanto riguarda le varie situazioni nelle quali possono essere tutelati. Sicuramente c'è questa definizione codificata del danno da vacanza rovinata, sia sull'aspetto economico patrimoniale sia sull'aspetto morale, che ovviamente chiude tutta una discussione giuridica che si è intrattenuta per lunghi anni, e quindi a questo punto è riconosciuto tranquillamente, palesemente, al consumatore che provi praticamente il proprio disservizio dell'operatore turistico il danno da vacanza rovinati. I criteri sono quelli temporali e sono quelli sostanzialmente anche derivanti dalla normativa specifica. Allora. Avvocato Bonaguidi, dobbiamo fermarci perché abbiamo la prima pausa. Io qua ho un altro legale con me, l'avvocato Barbara Monti, che voleva precisare ulteriormente appunto alcuni degli aspetti che lei ha toccato adesso sul tema del danno da vacanza rovinata, perché peraltro anche quando la legge è stata varata la scorsa estate, anche su questa questione si era scatenato appunto un grande dibattito relativo appunto all'interpretazione su quello che deve essere ritenuto danno da vacanza rovinata. Possiamo? Pietro, che mi fai con gli scherzi, Pietro Lacorte in assistenza tecnica dalla BIT di Milano. Allora, riprendiamo la nostra diretta. Questa mattina, essendo la Borsa Internazionale del Turismo, Salva Danaio non poteva che dedicare un'attenzione ai consumatori, ai viaggiatori, che naturalmente sono tanti in Italia, per fortuna, anche se negli ultimi tempi a causa della crisi hanno dovuto magari rinunciare a viaggi un po' più belli che sognavano, ridurre un po' i periodi della vacanza, ma per fortuna ancora delle rinunce drastiche e radicali non ci sono state. Però la questione della quale parliamo noi questa mattina è la novità che è arrivata la scorsa estate, che è stato oggetto anche in altre circostanze della nostra trasmissione, cioè il nuovo codice del turismo, che ha introdotto delle novità per quello che riguarda appunto le tutele dei consumatori. E noi, prima della nostra prima pausa, ci stavamo soffermando sul danno da vacanza rovinata. Allora, io leggo una definizione che ho, poi mi rimetto in mano ai due legali che abbiamo questa mattina per capire esattamente qual è la situazione. Da quello che capisco, prima era riconosciuto solo un danno materiale alla persona, quindi al viaggiatore, un danno materiale che derivava dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni previste da un contratto di vendita del pacchetto turistico. Con le nuove norme, invece, a tutela del turista è previsto chiaramente anche il risarcimento per il danno morale, ovvero da vacanza rovinata. Avvocato Monti, fino a qui sono stata corretta, ma parzialmente. Perché? Preciserei, non si tratta di un danno morale, ma si tratta di un danno non patrimoniale da inadempimento. Che cosa significa? Il nostro ordinamento prevede il danno patrimoniale, che riguarda il mancato guadagno e le spese, i danni sostenuti, e danni che riguardano la sfera personale. E questa definizione di danno non patrimoniale. Se non arriva la valigia, chiaramente non arriva mai il danno economico riferito al contenuto della valigia, ma al fatto che anche io in vacanza non possa utilizzare tutto quello che c'è dentro mi rovina la vacanza. Quello è il danno morale? Quello è il danno non patrimoniale, però attenzione, il danno non patrimoniale da inadempimento disciplinato oggi dal codice del turismo ha requisiti precisi. Non ogni disservizio, non ogni prestazione dedotta nel contratto di viaggio può essere tale da dare diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata. Perché? Perché il nostro legislatore che cosa ha fatto? Si dice ha positivizzato, cioè ha reso legge quello che già la giurisprudenza, ossia i giudici, avevano stabilito. La Corte di Cassazione Sezioni Unite del 2008 aveva già dato un'indicazione precisa del danno non patrimoniale da inadempimento in generale, calandolo in vari contesti, trasporto aereo, lavoro dipendente e quant'altro. Non stiamo qui a, come dire, a soffermarci su questa Cassazione. In questo caso, cioè nel caso del contratto di viaggio, il viaggiatore che subisce un danno grave e serio e importante, tant'è che la norma richiama l'articolo 1455, perché per essere, come dire, che richiama la risoluzione del contratto, cioè la non scarsità dell'inadempimento. E c'è di più. Ci sta mettendo in difficoltà, no, adesso, le spiego. Allora, cerco di semplificare. Acquisto un pacchetto turistico, un pacchetto turistico di 15 giorni. Subisco un ritardo nel trasporto aereo, anche di 8-10 ore, ma comunque il pacchetto si compone del trasporto, dell'alloggio, delle escursioni. Non posso chiedere il danno da vacanza rovinata per quel servizio che è rimasto certamente inadempiuto, che dà diritto ad altri danni, ma non al danno da vacanza rovinata, perché altrimenti si ridurrebbe il danno, si renderebbe questo danno simile ad altri danni. Certo, se però il ritardo del primo giorno a domino mi cade anche su tutte le altre giornate e mi comporta una serie di ritardi successivi, magari in un viaggio in treno del terzo giorno della vacanza, in un volo successivo. Allora, se mi comporta un ritardo, perdo l'escursione, la prestazione di alloggio rimane inadempiuta. L'albergo non mi tiene l'albergo, la camera. Esattamente, esattamente. Allora sì, perché il danno da vacanza rovinata è commisurato all'oggetto del pacchetto, non alle singole prestazioni. questa è la differenza rispetto a valutazioni che venivano fatte in fase stragiudiziale, ma anche giudiziale, prima dell'articolo 47 del decreto legislativo 79 del 2011. Perché in questo caso il legislatore ha stabilito dei parametri, ecco, ha indicato il parametro della non scarsità dell'importanza e ha indicato il parametro della, dell'oggetto del contratto nell'intero. No, stavo immaginando un viaggiatore che subisse appunto una disavventura di qualunque tipo e pensa al danno, come la scarsità, che cos'è che mi ha detto poco fa? Danno non di scarsa importanza. Sì, lo stabilisce diciamo l'articolo 1450. Esatto, diciamo che non sarà la prima cosa alla quale pensa, però insomma abbiamo i legali apposta per fare questo lavoro. Avvocato Bonaguidi, allora sa perché ho fatto precisare queste cose all'avvocato Monti? Non naturalmente per soffermarci appunto sulle cose che lei diceva prima, perché in qualche maniera anche la scorsa estate si era generata un po' di confusione tra ovviamente gli operatori del settore e le organizzazioni dei consumatori, che erano state ritenute responsabili di aver enfatizzato un po' la questione del rafforzamento della tutela per il consumatore sul danno da vacanza rovinata. Sono stati precisati i contorni legislativi, ma forse non è stato ampliato il campo del danno. Che cosa ne dice? Guardi, assolutamente sì, posso confermare. Se vogliamo soffermarci ancora un attimo, come faceva correttamente puntualmente la collega prima, l'articolo 47, in effetti abbiamo già esaustivamente toccato i temi principali. Io però vorrei aggiungere questo, che ovviamente questa nuova definizione codificata all'articolo 47 inquadra perfettamente questa tipologia di danno sul fatto che è un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell'occasione perduta. Secondo me a questo punto questi paletti servono a identificare perfettamente ciò che può richiedere il consumatore e perché lo richiede. Quindi al di là del fatto che ovviamente c'è un collegamento col 1455 del Codice Civile per dire che il danno non deve essere di scarsa importanza, al di là del fatto che c'è un collegamento sul fatto che il danno può essere solo, la tutela risarcitoria di questo tipo può essere solo richiesta quando vi è l'esistenza di un pacchetto turistico, quindi il cosiddetto pacchetto turistico, ricordiamolo, è quello quando quello identificato all'articolo 34 del codice del turismo, che ha per oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche e via di questo passo. La circostanza unica e irripetibile, poi dopo me la ricordi, sì, avvocato aspetta. Bonaguidi, perché c'è Massimiliano della provincia di Varese a cui hanno rovinato il viaggio di nozze, per cui credo che qua possiamo sicuramente affrontare un caso interessante. La lascio concludere. Sicuramente, volevo solo aggiungere senza alcuna ombra di metterci a fare un discorso di discussione giuridica, fine giuridica, perché non è la sede, però che non sono molto d'accordo con la collega quando dice che non è un vero e proprio danno morale. A mio avviso e anche ad avviso dei relatori del codice del turismo, viene così a riconoscerci, si dice, la figura del danno morale per la lesione del suo interesse da parte dell'interesse del consumatore al pieno godimento del proprio tempo libero e in particolare della propria occasione di svago e di divertimento programmata, sovente un'occasione irripetibile. Quindi a mio avviso è evidente che si tratta di una tipologia sì di danno non cosiddetto non patrimoniale, ma è morale, un qualcosa che palesemente si aggiunge al quel danno che si può raggiungere con la risoluzione del contratto e la richiesta di riduzione o restituzione del prezzo pagato. Intanto per alleggerire un po' il tema, perché vi ci siete veramente messi d'impegno per complicarcelo, questa mattina vi dico che lo stand non di Radio 24 ma anche dei vicini appunto sta per essere visitato dal sindaco di Milano Pisapia, che ho visto passare poco fa, così vi do anche questa telecronaca in diretta per allietarvi la giornata. Allora ci dobbiamo fermare perché adesso ci sono i suggerimenti perché in viaggio, poi vado agli ascoltatori perché sennò penseranno che li volevamo coinvolgere per scherzo. Forse riesco a far raccontare a Massimiliano da Varese il suo caso. Sì, Massimiliano, la prego, ci racconti un po' che cosa le è successo. Viaggio di nozze rovinato, perché? Ma allora, sostanzialmente per questo, due ordini di cose sono capitati. Il primo è che era un viaggio di nozze e quando siamo arrivati nessuno sapeva che eravamo in viaggio di nozze, quindi ci hanno dato una camera qualunque e non quella che era prevista nel pacchetto. E lì nessun problema, abbiamo fatto il viaggio di nozze. Viaggio di ritorno, causa ritardo del primo aereo che ci doveva portare a Miami, poi da Miami all'Italia, abbiamo perso l'intercontinentale verso l'Italia. Mm-hmm. E all'Italia ci ha spiegato che è colpa del tour operator che ha sbagliato a fare il biglietto, altrimenti avremmo avuto diritto ad avere un altro volo direttamente. E tra l'altro, chiamato tour operator, abbiamo passato 2 giorni a Miami, per l'amor di una bella città, ma ho visto solo l'aeroporto, cercando di contattare qualcuno che ci fornisse qualche informazione, perché il tour operator ci ha risposto: compratevi un biglietto, tornate a casa. Avvocato Monti, allora, il nostro Massimiliano è andato in viaggio di nozze a Miami. Prima cosa, voleva trovare una camera da letto con una distesa di petali di rose, per goderselo naturalmente con la sua novella sposa. E invece, insomma, intanto gli è stata data una camera qualunque, credo che avesse pattuito qualcosa di diverso. E poi tutta la disavventura del ritorno, il viaggio intercontinentale perso. E allora, qual è la fattispecie del danno che ha subito il nostro ascoltatore Varesotto? Ma allora, Varesino, come si dice? Varesotto? Eh no, perché non mi fate fare queste gaffe. Avvocato. Allora, beh, intanto sono dispiaciuta per quanto è accaduto. Comunque, mi sembra che i disservizi che l'ascoltatore ha subito sono sostanzialmente due. Una camera differente rispetto a quella pattuita e un disservizio durante il trasporto di ritorno, cioè il volo di ritorno. Ora, l'analisi che posso fare è sui due disservizi. Quindi il danno da vacanza rovinata in questo caso, a parte che è una fattispecie, sicuramente bisogna vedere intanto se effettivamente l'agenzia o il tour operator non aveva realmente prenotato. Nel frattempo alle sue spalle è passato anche il ministro Gnudi, quindi benissimo. Io lo dico benissimo. Credo che un danno da vacanza rovinata risarcibile sulla base di questi due disservizi, quando ricordiamo che il consumatore turista può chiedere all'albergatore una diversa sistemazione e quindi cercare di sanare in loco, questo è molto importante, e evitare che il danno e le conseguenze dannose siano maggiori rispetto ad una richiesta che può essere fatta localmente. Per quanto riguarda il volo di rientro, ritengo che il tour operator possa rendersi disponibile a valutare il risarcimento delle spese sostenute. Ora, fatico però, il punto è capire di quanti giorni era il viaggio, quali altri servizi erano ricompresi nel pacchetto. Non credo che comunque Massimiliano voglia farsi risarcire l'intera vacanza, immagino. No. Però qualche diritto di qualche indennizzo rispetto a quello che ha subito. Dunque, forse intanto, ma intanto la differenza di prezzo tra la camera che aveva prenotato quella che ha avuto è dovuto e lo prevede il codice ed è corretto. Si tratta, ecco, quello che può ragionevolmente rivendicare Massimiliano, che cos'è? Sicuramente le spese sostenute per il viaggio di rientro. Due giorni di permanenza in più, che magari di cui si sarà incaricato lui. Sì, esattamente. E quindi siamo nell'ambito del risarcimento dei danni patrimoniali. Il danno non patrimoniale da inadempimento, nel caso di specie, non lo vedo risarcibile, in quanto i disservizi rispetto, immagino che sia un viaggio di nozze ordinario, cioè di 15 giorni, spero che si siano in qualche modo, che siano rimasti soddisfatti delle altre prestazioni dedotte a contratto. Quindi vedo un'interpretazione estensiva della norma di cui l'articolo 47 nel caso di specie, se si accordasse il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Perché il collega ha sottolineato che si tratta di danno morale. Il danno morale per il nostro codice è legato al compimento, alla commissione di un reato, ha una connotazione precisa, ha confini precisi. Qui stiamo parlando comunque di norme di legge. Quindi faccia capire, il codice del turismo nuovo il danno morale non lo contempla per nulla? Il danno morale no. Il nostro codice del turismo contempla il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. Sono due istituti differenti. Concordo con il collega, non è questa la sede per andare a dissertare di istituti giuridici, però per la precisione. Benissimo, allora chi sentiamo adesso? Sentiamo un po' Angelo da Milano, che ha perso una valigia dove all'interno c'erano probabilmente telefonini nuovi, un bel iPad. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Angelo ci sente, salve, buongiorno. Sì, la sento benissimo, buongiorno a tutti. Sì, io praticamente mi definirei una persona che ha subito danni a 360 gradi, diciamo. Perché in pratica cosa è successo? Io dovevo fare un viaggio intercontinentale con scalo a Roma, quindi ho preso un volo interno, sono arrivato a Roma praticamente mi dovevo dare il bagaglio e dovevo partire per questo viaggio intercontinentale. A Roma non si trova più il bagaglio. Non trasferivano direttamente loro a destinazione, insomma, doveva recuperare all'aeroporto intermedio. No, me l'avrebbero dovuto consegnare a Roma. Perché erano due voli staccati, me l'avrebbero dovuto consegnare a Roma Io poi dopo da Roma sarei dovuto passare sull'area, diciamo, dei voli intercontinentali e avrei dovuto fare l'imbarco nuovamente e partire. Certo, Angelo, può sintetizzare quindi nella sostanza che cosa le è successo, così diamo spazio anche ad altri ascoltatori? Ah, subito, guardi, è successo questo, dall'agenzia di viaggi, io ho perso la valigia, ho contattato l'agenzia di viaggi, hanno provato a contattare la compagnia, hanno avuto riscontro da parte della compagnia, li hanno chiamati per dire sì, abbiamo trovato il vostro bagaglio, diteci dove spedirlo. L'agente di viaggio ha dato il suo indirizzo di agenzia e recapiti, ha ricevuto anche il codice dell'operatore che ha comunicato questa informazione. Dopo 15 giorni ho contattato l'agenzia di viaggio per dire ma il bagaglio allora è arrivato o non è arrivato, abbiamo provato a richiamare e la compagnia non ha fatto altro che dire ah no, guardi, noi non abbiamo mai fatto questa telefonata per confermare ciò. Quindi praticamente Angelo, allora loro dicono che no. Senta, quanto tempo fa le è successo tutto questo? È successo un paio d'anni fa. Ah beh, quindi la valigia non la vedrà mai più, ecco, nella sintesi volevo arrivare a questa conclusione drastica. Avvocato Bonaguidi, che ne pensa di questo caso? Ma qua siamo ancora una volta, intanto è successo 2 anni fa, quindi... Intanto il danno è bello patrimoniale questo. È bello, ecco, patrimoniale, bravo. Assolutamente, se dovessimo ragionare sulla normativa applicabile, credo che non si possa applicare la normativa nuova, chiaramente, perché è entrata in vigore nel giugno del 2011 e quindi dovremmo riferirci alla normativa precedente. Sicuramente, se ho capito bene, trattasi di pacchetto di viaggio, quindi di un pacchetto turistico sostanzialmente, quindi l'applicazione è quella. Mi sembrava un viaggio individuale. Ah, solo un volo? Allora ho capito male io, perché si sentiva non particolarmente bene. Quindi a questo punto dobbiamo riferirci alla carta del passeggero e il regolamento CE numero 261 del 2004, che prevede dei parametri ben precisi di rimborso. E quindi sostanzialmente ci sono le solite franchigie applicabili e poi se invece il passeggero riesce a dimostrare dei danni maggiori subiti dallo smarrimento, a questo punto mi sembra definitivo, della valigia, deve però riuscire a provare quanto effettivamente era contenuto nella valigia avente maggior valore, che diventa una prova concreta molto complicata e molto difficile. Infatti, avvocato Monti, non è d'accordo sulla comunque tutela della carta dei diritti del passeggero? Ma la carta dei diritti del passeggero è comunque una raccolta di norme che riguardano fonti internazionali e sovranazionali. Il collega ha citato una fonte sovranazionale che però disciplina l'overbooking in negato imbarco e il ritardo, non lo smarrimento del bagaglio. In questo caso, ecco, il legittimato passivo, e vale a dire il soggetto aggredibile, è la compagnia aerea, senz'altro. Solo che sono passati 2 anni, ormai se Angelo non ha fatto nulla, l'ha prescritto. Allora, io leggo rapidamente 2 messaggi di 2 ascoltatori perché non riusciamo a farli intervenire. Domenico dalla provincia di Monza e Brianza aveva prenotato una casa in Spagna che doveva essere ad uso esclusivo, poi non si è rivelata tale. In questo caso, pacchetto o servizio? È importante sempre fare questa distinzione. Quindi per capire se ha comprato un pacchetto, se ha cercato questa casa da solo, in sostanza. Domenico, mi sente? Sì, la sento, buongiorno. In 10 secondi, ha fatto da sé oppure ha comprato un pacchetto? No, l'ho fatto tramite un'agenzia specifica che si occupa dell'affitto di appartamenti da turismo ed abbiamo un regolare contratto. Benissimo, stiamo andando in chiusura. Avvocato Monti, cosa deve fare l'ascoltatore? In questo caso intanto formuli una richiesta all'agenzia, la quale contatterà il fornitore di servizi al fine di verificare l'accaduto. Ma soprattutto quando vi capita la disavventura muovetevi subito, perché sì, assolutamente, reclamo tempestivo in loco, è fondamentale. Grazie a Vittorio Bonaguidi e Barbara Monti per essere stati con noi. Salva Danaio dalla BIT vi saluta, buona giornata a tutti. Grazie a voi e buon lavoro.